vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Aspetti a dargli una vena sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si è lontano un chilometro che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si è lontano un chilometro che è un gatto che non è sotto i capelli. Allora, c'è qualcuno che pensa che i magistrati, i PM che hanno accusato il Berlusca, uscito vittorioso, trionfatore da questa vicenda di Ruby, Rubaguari, debbano chiedere scusa. E lo dice uno che è stato magistrato, ha fatto politica, è stato anche il sindaco di Bari, Michele Emiliano, signor Emiliano. Dice che i PM devono chiedere scusa a Berlusconi. Adesso va bene tutto. Ma chiedere scusa, la cosa era sbagliata sin dall'inizio, volevano fregare Berlusconi sul sesso, ma è stato Berlusconi a offrire la sua vita privata su un piatto d'argento, perché se tu frequenti carovane di ragazze che vogliono da te denaro in cambio di non so che cosa, è evidente che poi c'è qualcuno che ti fotte, no? Se tu frequenti il signor Tarantini invece di frequentare, come dire, persone specchiate, alla fine qualcuno te lo mette in quel posto. Comunque vabbè, Emiliano, dai. Una procura che riceve una soluzione del genere dovrebbe, secondo me, in maniera istituzionale prendere atto della sconfitta e, tra virgolette, scusarsi, perché un pubblico ministero, io l'ho fatto per tanti anni questo mestiere, un pubblico ministero non è obbligato a rinviare a giudizio una persona, se lo fa deve sapere di avere un apparato probatorio certo al 100%. Vabbè, allora secondo Emiliano non dovrebbe esistere il processo, invece esiste il processo e Berlusconi è stato... Però è interessante perché lo dice Emiliano, non in quanto ex magistrato. Per carità, chiedere scusa. Ma in quanto uomo del PD. Chiedere scusa. No, quello è interessante. Ti pare un giudice, fa un PM, fa un processo, istruisce tutta una roba così, che per me è una follia, una follia per inculare Berlusconi, perché l'obiettivo era fregare Berlusconi. Poi Berlusconi gli ha offerto un materiale su un piatto d'argento a questi magistrati. Sì, però oggi, guarda, io dico, è stato assolto, benissimo. Cioè, vabbè, ma è che tu dica benissimo che ci fregano. No, perché voglio dire, bisogna anche riconoscere, non esiste quel tipo di reato. Fine. Sì, dopodiché bisogna dire. Poi politicamente posso. No, ma bisogna oggi dire che il difensore che è stato assolto. Ma il difensore di Berlusconi, grande, giustamente. Sì, il difensore di Berlusconi, uno dei difensori, il signor Coppi, dice anche che c'è stata prostituzione lì, Cioè, in quella villa c'è stata quella che lui chiama prostituzione, che per me peraltro non è prostituzione. Coppi, non ci interessa quel che è avvenuto, può essere. No, lo riconosciamo, ma, dice. No, non dice, lo riconosciamo, come no? La parola riconosciamo non sì, mi pare. Sì, però. sì, assolutamente. Vabbè, poi la Biancofiore va oltre, no? Va oltre. E fa capire che ci sono senatori, chissà a chi si riferisce, i senatori gli hanno spacciato l'escort come nipoti. Cioè la colpa, secondo la Biancofiore, anche di chi? Senatori, dice lei, forse si riferisce alla signora Rossi, la senatrice, la badante di Berlusconi, forse, sentite. Il problema è un altro, che quando senatori della Repubblica spacciano le nipoti, spacciano delle escort per nipoti, il Presidente del Consiglio non lo può sapere qual è la verità. Punto. E lo fanno per ringraziarsi il Presidente Berlusconi. Lo fanno perché quando ci sono dei punti deboli, pur di arrivare vicino al potente di turno, ahimè si fa di tutto. E lei li ha visti. E a chi si riferisce la signora Biancofiore? Saperlo. Vabbè, poi la solita cosa, milioni spesi per far apparire Berlusconi stupratore di ragazzine, e questo oggettivamente è vero. La procura di Milano ha speso una marea di soldi in intercettazioni telefoniche per spiare la vita di Berlusconi e cercare di incastrarlo su due reati, la prostituzione minorile e la concussione. Risultato, una sconfitta. Però adesso che vogliamo fare? Dobbiamo decapitare la Boccassini? Che dobbiamo fare? La dobbiamo cacciare dalla procura di Milano? Boh. Milioni di euro spesi per far apparire il presidente del Consiglio in carica in quel momento nel mondo uno stupratore di ragazzine. Questo è il vero dramma. 100 agenti segreti che circondavano la casa privata del presidente del Consiglio in carica. Quindi, tra virgolette, poi c'è l'altra questione, quella della Lega con l'espulsione di Tosi, il signor Tosi. Finalmente si arriva a una chiarezza, se no non ce la facciamo più con questa vicenda di Tosi. Comunque, Tosi espulso, anche se non formalmente, comunque fuori dalla Lega. Fuori dalla Lega, espulso, e dice, insomma, hai visto, no, quello che ha detto Salvini? Salvini ha detto: vado a mangiarmi un panino. Si è messo fuori. Sì, ha detto: non parlo di Tosi, vado a mangiarmi un panino. Sì, vabbè, sentiamo Tosi che dice che c'è la dittatura nella Lega adesso, la dittatura di Salvini. Da mesi e mesi il sottoscritto proponeva di incontrarsi e questi incontri sono stati rinviati per mesi e mesi per poi arrivare agli sgoccioli. E quindi c'è la convinzione che appunto il motivo fosse altro, un controllo dittatoriale della Lega Nord. È una scelta che fa Matteo Salvini e se ne assume la responsabilità. Salvini a Radio Padania, perché oggi gli dava fastidio parlare di Tosi, parla sempre di tutto, di Tosi gli dava un po' fastidio. Sentite a Radio Padania un accenno proprio ha fatto. Senti. Tosi che sta facendo una conferenza stampa di dice: sei sleale, scorretto, caino, dittatore, e tra un po' dirà che puzzi anche un po'. Di solito mi danno del dittatore, dell'estremista, dello sleale, dello scorretto, insomma, Alfano e Renzi. Se si aggiunge qualcuno è in buona compagnia, non mi tocca. Beh, diciamo, gli amici di Radio Padania leggermente pro Salvini, diciamo, leggermente a favore del padrone, sta, poverini, leggermente giusto, a favore di chi guida, di chi guida la baracca. Amici di Radio Padania, schiena dritta, mi raccomando, schiena dritta. No, su questo amico Pellegrin, no, amico Varin, mi raccomando, proni. Altrimenti la cacciano pure a voi, magari, no? Adesso io come sai, non ce l'ho pregiudizialmente con Napoli, non me ne frega niente, no? Però ridevo su una cosa. Apro il sito del principale giornale di Napoli, Il Mattino. Io adoro Napoli, napoletani. Adesso devo fare questa premessa, sennò poi mi massacrano. Ma cazzo, metti un americano che parla italiano e legge italiano, no? Si collega oggi con ilmattino.it da Washington, eccetera, eccetera, e legge le notizie su Napoli. Ti giuro, è una roba impressionante. Violenta il figlio di 11 anni e lo offre ai pedofili sul web. E questo può succedere in tutta Italia. Però è incredibile. Anche al nord è successo. Neomelodico indagato per il video O Capo Clan, slitta il processo. Neomelodico indagato per il video O Capo Clan, che pare per favoreggiamento della camorra. Seviziato con il compressore. Ecco cosa ha fatto l'uomo che mi ha distrutto. Poi c'è pure un ex giocatore del Napoli che dice: ho avuto un allenatore pedofilo, senza calcio avrei fatto una brutta fine. Adesso, per carità, bisogna assolutamente dare queste notizie, noi siamo i primi a dare. Però uno che deve, come dire, avvicinarsi a Napoli scappa a gambe levate. Poi effettivamente c'è una notizia interessante. Uno che scrive una lettera: ho perso il mio portafoglio a Napoli e dopo pochi giorni ho trovato una sorpresa. Cioè gliel'hanno ridato con 115 euro e tutti i documenti. Applauso a questo signore napoletano, applauso. Allora, sto cercando di contattare da una ventina di minuti il signor Liguori, che non risponde, per capire se ha goduto e quanto ha goduto sulla sentenza Mediaset. Paolo Liguori. E Sai, Parenzo, cosa mi veniva in mente nei giorni scorsi? Me l'ero segnato qui, ma poi me l'ero dimenticato. Allora, è uscita la dichiarazione dei redditi dei parlamentari, no? Sì, di tutti, sì, i parlamentari, riferita, sì, credo al 2013, se non sbaglio. Il più ricco di tutti, cioè il paperone dei parlamentari, è un tizio che si chiama Antonio Angelucci, di Forza Italia. Beh, certo, ed è anche l'editore del quotidiano Libero. Sì, ma era impegnato, è il re delle cliniche, farmaci, le, no? Cliniche, eccetera, eccetera. Sì, allora, tu sai che la presenza di Angelucci in Parlamento è quello più ricco di tutti, 5,2 milioni di reddito dichiarato, eccetera, eccetera. È praticamente uno dei più assenteisti in assoluto alla Camera, con l'85% di assenze, se non sbaglio. Credo, credo. Adesso vado a controllare bene, vado a controllare bene. Ma questo cazzo di Liguori risponde o no? Risponde Liguori o no? Dai, Paolo, rispondi, su. Paolo? Sì? Come andiamo? Andiamo bene, come andiamo? Andiamo, sei soddisfatto? Bene. Sei contento del verdetto della Cassazione su Berlusconi? Dimmi la verità, quanto hai gioito? Che hai fatto? Guarda, ti posso dire di una notte perché... di sesso, che hai fatto? Ma no, ti posso dire, no, perché io sono tra quelli che pensa che la soluzione a Berlusconi non gliel'ha data la Cassazione. E chi gliel'ha data? La Corte d'Appello di Milano, che ha fatto una sentenza coraggiosa e ben motivata. La Cassazione ha solo confermato. Vabbè, d'accordo, quello formalmente. No, d'accordo. No, perché ancora fino a ieri... E molti temevano, molti di quelli vicini a Berlusconi temevano che la Cassazione potesse ribaltare tutto, no? Tutti questi mesi, anni, ho continuato a leggere sempre queste domande a Berlusconi, le famose 10 di Repubblica, domande, quelle di Repubblica, sì. Io ho una sola domanda, perché non gli chiedete scusa? Qualcuno, una voce, dovrebbe dire scusa, concussione non c'era... Cioè tu dici che Ezio Mauro dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi? Giannini, Ezio Mauro, tutti gli scienziati che firmavano le domande, che comparivano, lo dovrebbero fare una sola volta, non gli chiedo di farlo per 10.000 volte, però una sola volta, dici, una volta sola bisogna chiedere scusa. Concussione non c'era, ce ne siamo resi conto perché i due funzionari hanno detto ci siamo comportati, e prostituzione minorile nemmeno, d'accordo, ma scusa un attimo, ma perché bisogna chiedere scusa? In fin dei conti c'è stato un processo in primo grado c'è stata la scusa, perché non c'è stato un atteggiamento normale, vediamo se è innocente o se è colpevole, c'è stato accanimento. Allora bisogna chiedere scusa per l'accanimento. Ma sono i giudici o i giornalisti che devono chiedere scusa? Non ho capito. No, i giudici hanno già chiesto scusa. La Corte d'Appello di Milano ha mostrato. Ma mica hanno chiesto scusa. Mica hanno chiesto scusa. Il loro modo di chiedere scusa è fare una bella sentenza, motivarla bene. E il modo che ha la Cassazione di chiedere scusa è di avere un presidente come quello che ha la sesta sezione, che è, come si può dire, uno scienziato del diritto. Però dici guarda che anche di maggior... No, ma ho capito, ma secondo te sono soprattutto quelli di Repubblica, cioè Ezio Mauro? Ma non solo quelli di Repubblica, quelli di Repubblica mi piacerebbe, perché le 10 domande e poi chi? E poi chi? La capoce. E poi tantissimi altri, non so, pure Ferrarella stamattina sul Corriere ha fatto un articolo in cui diceva ecco tutti i motivi per cui era giusto incriminarlo. Ma insomma, potrebbe chiedere scusa. Pure lui, pure il Corriere della Sera. Sì, ma tutti i giornalisti, perché i magistrati hanno fatto alla fine il loro mestiere un po' male, ma anche bene, quindi il loro mestiere. I giornalisti. Scusa, ma la Boccassini non si deve ritirare dalla magistratura, secondo te? No, la Boccassini si è ritirata dall'aula al momento della sentenza, l'avrai notato, perché aveva ipotizzato un'altra forma di concussione sbagliata, quindi lì c'è già stata per gli occhi attenti. Ma quanto hai goduto tu personalmente? Quanto hai goduto? Hai goduto, dai, un po' hai goduto, dai. Avevo pensato, ero stato molto felice alla sentenza della Corte d'Appello. E Travaglio che deve fare? Travaglio dovrebbe chiedere scusa su questo. Poi continua. Pure Travaglio, cioè, ma quante persone devono chiedere scusa? Travaglio, Repubblica, Ferrarella, il Corriere della Sera, tutti a chiedere scusa. Non lo faranno mai, però approfittate della zanzara, chiamateli e gli dite qua c'è uno che vorrebbe che almeno su questi due reati piccoli potreste chiedere scusa, no? Perché vi scusa, ma però scusami Paolo, l'avvocato Coppi ha riconosciuto che c'era prostituzione là, ma questa è una cosa l'avvocato indegna per un presidente Coppi, del Consiglio, no? Coppi non ha riconosciuto. Ma come no? Ha detto c'era prostituzione, Coppi, questo lo riconosciamo. L'avvocato conosce il diritto, non ha detto lo riconosce, ha detto noi non siamo qui a sostenere se c'era o non c'era. No, l'ha detto che c'era prostituzione. No, lui ha detto noi siamo qui a sostenere se Berlusconi ha avuto rapporti e se era consapevole della minore. Ma quello i reati, d'accordo, secondo te era normale che il Presidente del Consiglio facesse quello che, insomma, invitasse tutta quella gente a casa sua, sì o no? Normalità. È normale che se uno si accanisce e fa il selvaggio, l'animale, con un'altra persona, gli chieda scusa, questo è normale. Io ti chiederei scusa. Cioè, chi è stato un animale? Chi è stato un selvaggio? Tutti quei giornalisti che selvaggi, animali, vabbè, pure Travaglio animali. Come quelli della olandesi della Barcaccia. Come gli olandesi della Barcaccia, ma dai Paolo, su 10 domande della Barcaccia. Cioè, Travaglio, Ezio Mauro, come gli hooligans della Barcaccia. Sì, come gli hooligans della Barcaccia. Se non chiedono scusa. Se chiedono scusa rientrano nel contesto civile. Vabbè, ciao, ciao, grazie. Anche te non chiedi tanto scusa. Ma io che fai io? No, lui non chiede mai scusa, infatti. Mai scusa. Ma io ti chiedevo chiedere scusa. Beh, di tutto quello che fai, è vero. Ho detto delle cazzate che meritavano le scuse. Delle volte, non sempre, delle volte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Paolo. Allora ragazzi, però la frase di Coppi, che è un difensore, è abbastanza chiara, che ad Arcore avvenissero fatti di prostituzione, non lo contestiamo nemmeno noi difensori, questo ha detto Coppi, per cui serenamente su questo uno deve dire sì, è vero, lo dice l'avvocato difensore, che avvenivano fatti di prostituzione. Poi per me sbaglia pure Coppi, perché lui lo dice in funzione di difensiva, diciamo, per me non erano manco prostitute quelle là, quelle erano, come dice, no, dice, come dice Berlusconi, mantenute, come dice Sgarbi, mantenute. Però è diverso, dice non lo contestiamo nel senso che non lo riteniamo ai fini processuali. Sì. Sì, beh, certo, certo. Allora, stavo dicendo prima il signor Angelucci, no? Signor Angelucci è il più ricco tra i parlamentari. Per i fatti suoi. Sì, certo, 5,2 milioni, no? È il paperone della Camera. Tu lo sai quante presenze ha la Camera dei Deputati? Cioè, alle votazioni, 98,93 di assenze. Cioè, 98,93. Cioè, su 7.971 votazioni dall'inizio della legislatura è andato solamente a 85, cioè l'1,07. Ora, io voglio, va bene tutto, va bene tutto. Signor Angelucci, possiamo chiedere dall'alto della sua, del suo sommessamente, del suo reddito, professore Antonio Angelucci, editore di Libero, editore anche di Libero, non lo so se sia professore, fate un sondaggio, amici del quotidiano Libero, perché Angelucci, esatto, perché non fate un sondaggio anche voi, fate un sondaggio, è giusto che Angelucci vada in Parlamento il 3% delle volte, no, che il 3%, l'1,07 sì o no? Amici di Libero. E noi chiediamo sommessamente al dottor Angelucci, che è il più ricco, di andare qualche volta, ma poche volte in più, una decina di volte in più, così, tanto per conoscere un po' i commessi, eccetera. Ma così almeno conosce i commessi. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Comportatevi bene. Allora ragazzi, la notizia più incredibile che c'è oggi, caro Parenzo, è un'altra in realtà. Adesso io, è facile dirlo, no? Però voglio che lo dicano gli ascoltatori, voglio che si esprimano liberamente su questa cosa qua. Ora, cosa bisogna fare con questo signore qua? Un signore, uomo, cioè, per modo di dire, uno di 44 anni, arrestato, ma questo è, come dire, sarebbe grave se non fosse accaduto. Un signore che ha violentato ripetutamente il figlio di 11 anni, questo signore a Napoli. Poi adesso ci sono degli scrittori napoletani intervistati che dicono la colpa non è di Napoli, ma nessuno può pensare che la colpa sia di Napoli, no? In questo caso, non esageriamo, ragazzi. Ovvio. Quando si tratta dei motorini, degli incidenti senza casco e di altre cose, uno può pensare all'ambiente degradati, ma in realtà i pedofili esistono ovunque, no? Non solo a Napoli. Allora, ha violentato ripetutamente il figlio di 11 anni e poi, e già questo sarebbe una roba, è già una roba incredibile, e poi ha messo online le foto per attirare altri pedofili, potenziali clienti. Cioè, malato, ma di che stiamo parlando? Pazzo, allora, da punire, io, come? Cosa bisogna fare? Sperare che si ammazzi da solo, sperare che si ammazzi in carcere. Cioè, questo potrebbe essere una speranza. È talmente orrendo e disumano. Chi è che mi chiama? Chi è che mi sta chiamando? Chi è che mi sta chiamando al cellulare? Ho capito, ma tu che cosa faresti con questo tizio? Semplicemente mandarlo in galera e basta. Ma no, dici, ma non semplicemente, no, per me non è che esiste la giustizia dei cittadini, la lapidazione, il taglio della testa. No, ma posso sperare, però cioè, è evidente che per un crimine così l'istinto è un altro. No, d'accordo, però si può sperare, si può sperare che questo ma in che cosa? Nella pena di morte? No, non c'è no, nel io spero, spero che abbia come di un nella sussurro chiusura in un carcere nella cura perché no, è un di malato. Più, di più, di più, di più. Io spero ma nel insomma, suicidio, devo dirti la verità, io spero nel suicidio. Ma posso dire che spero nel suicidio? Mettiamo che sia confermato tutto, no? Cioè che abbia violentato il figlio di 11 anni, che l'ha offerto ai pedofili sul web, eccetera, eccetera. Disumano. D'accordo, allora si può sperare, si può sperare. Io non spero niente, spero che venga condannato e curato anche. Perché no, sperare, è un sperare cioè, nel suicidio no, sperare, sperare, non spingerlo, non no, ammazzarlo. Che non, no, molti che risarcimento è? Cioè è un risarcimento beh, scusa, per in chi? Carcere, in carcere dobbiamo anche mantenerlo, eh. Ti segnalo anche questo, in carcere bisogna mantenerlo. Però per carità, dire, non dico nulla. No, ma io dico semplicemente, si può sperare. È disumano pensare che... Ma è disumano quel che ha fatto la pena. No, ma è assurddo pensare che sperare nel suicidio. Io non sono per titillare gli animi della gente su una roba disumana come questa. Cioè è talmente disumano quel che ha fatto che non esiste pena, no? Nel consesso civile vabbè. È ovvio che anche l'ergastolo non risarcirà nulla di quel che ha fatto quest'uomo E intanto la Lega, come sapete, è passata dal senatur al dittatur. Ti piace questa? Non è male, eh? La Lega è passata dal senatur, ossia al dittatur Salvini. Così dice almeno il signor Tosi, che dice addirittura che c'è un dittatore nella Lega, la dittatura di Salvini. Controllo dittatoriale della Lega Nord è una scelta che fa Matteo Salvini e se ne assume la responsabilità. Scontro tra Sibilia 5 Stelle e Daniela Santanchè su Berlusconi evasore fiscale. Chi evade il fisco? No, ma infatti, è il leader di Forza Italia che fa frode per 7,7 Sibilia, miliardi di euro allo Stato. I soldi vanno presi da queste persone qua. I soldi vanno presi da queste persone. Possiamo interloquire, Giannini? Possiamo interloquire. Berlusconi sarà pure il primo contribuente, ma anche quello che prende un vitalizio nonostante sia condannato. Berlusconi è un condannato. Sì, è anche il primo presidente del Consiglio condannato con un vitalizio sulle spalle. Ah già, è vero anche questo, cioè, tra quelli che abbiamo intervistato tra i deputati, ex deputati condannati che incassano il vitalizio, uno dei primi in realtà è Berlusconi, che ha superato chiaramente l'età e già incassa. Chissà dove va a finire, in quale conto va a finire il vitalizio. Credo 8.000 euro al mese, il vitalizio del Berlusca. Come condannato prende anche il vitalizio. Vabbè. Ruba 4.400 euro al mese ai cittadini italiani. Benissimo. Allora, Sibilia, senta. Mettiamo i puntini sulle i innanzitutto. Sibilia, senta, volevo chiederle un'altra cosa. Allora, mi pare, perché poi devo mandare un servizio. Ma ti fai mettere dietro le secole? Cosa ha votato lei su Italia? Ma perché tu hai il 94% di assenza in Parlamento? Vai in Parlamento, Santanchè. Sibilia, devi andare in Parlamento a lavorare. Un attimo. Questa è la democrazia, ti fai mettere nell'acquario. Vabbè, ma tanto sta rispondendo. Il 94% di assenza in Parlamento. Sibilia, mi risponde in televisione che in Parlamento. Scusi, Sibilia, mi risponda a me. Ma in realtà abbiamo scoperto che più della Santanchè, ma gliel'abbiamo chiesto più volte, la Santanchè non cominciate a romperci i coglioni con ieri sera, gliel'abbiamo chiesto 8 milioni di volte, uno dei più assenteisti è anche il signor Angelucci, l'abbiamo già detto, è il più ricco del Parlamento, editore di Libero, 98,93 di assenze. Noi chiediamo sommessamente, lo ripetiamo al signor Angelucci, di recarsi almeno un paio di volte al mese, dico due volte al mese, con la Ferrari, perché possiede molte Ferrari, al Parlamento, parcheggia, si fa multare magari. Se non ha gli accessi al centro storico tanto non è un problema, dopodiché via, due volte, almeno due volte, per abbassare quella media non ci vuole molto, dal 98 magari passa all'80, così lo notiamo di meno. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. La soddisfazione di Berlusconi per la soluzione in Cassazione nel processo Ruby, grande felicità, ora subito in campo con Forza Italia e tutto il centrodestra. Rottura definitiva nel carroccio. Tosi espulso, attacca. Salvini fa il dittatore della Lega. Per ora però non annuncia la sua candidatura. Il sindaco di Verona al TG3. Riforme tornano in Senato. La minoranza PD chiede modifiche all'Italicum. Cuperlo al TG3. In gioco la tenuta del partito. Guerini sbagliato a evocare questi rischi. Euro ai minimi, ad un passo dal dollaro. Draghi, il piano BCE funziona, sostiene la ripresa ed evita il contagio dalla Grecia. Scontro Atene-Berlino sui danni di guerra. L'esercito iracheno sul punto di riconquistare Tikrit, città simbolo in mano al califfato. È francese il bambino che in un video uccide un ostaggio dei jihadisti. Salta al Senato l'adozione di minori per i single dopo l'affidamento. Sarà possibile solo in alcuni casi particolari. Approvata la legge, ora va alla Camera. A New York, campagna di raccolta fondi per salvare l'East Island, lo storico edificio che ospitava gli immigrati al loro arrivo negli Stati Uniti. La loro storia in migliaia di foto. No, piccola parentesi prima degli ascoltatori, ma vi pare normale che in Italia non ci sia una legge che permetta, e addirittura uno del PD è stato costretto a ritirare un emendamento, una legge che permetta ai single di adottare? Cioè, ma siamo alla follia totale. Cioè, poi uno pensa che è facile fare una legge sulle coppie di fatto, sarà impossibile. Cioè, qualcuno pensava, il centrodestra in particolare o altri, che magari era il grimaldello per arrivare all'adozione da parte di coppie omosessuali. Cioè, in Italia si blocca tutto, anche l'adozione dei single, che è sacrosanta, perché non si capisce perché un single non possa adottare se ha delle caratteristiche, se ha ovviamente delle possibilità di farle, se rientra nei parametri, solamente per lo spauracchio dell'adozione gay. Una roba incredibile, pazzesca, dai, pazzesca. Va bene, andiamo a Palermo. Armando, vai. Armando, dimmi. Ciao, buonasera. Armando, e parla, dai, forza. Sto parlando, mi senti? No, ti sento poco. Mirella da Genova, dai. Pronto? Mi sente? Dimmi, Mirella, dimmi. Allora, dico, lei mi piace moltissimo perché è una persona intelligente, arguta. Vabbè, vai avanti, allora. Ok, no, vado avanti un corno. Ma quando parla di prostituzione mi indigno e mi viene la carogna, come dicono a Genova. E perché, scusa, perché? Perché lei oltretutto lei è lì con un microfono in mano. Sì, ma questo mi sembra, scontato. Lei pensa, mi lasci parlare, lei pensa e dice, è la stessa cosa, non è la stessa cosa una persona che si prostituisce perché vuol farlo, ed è in minoranza, e sono in genere le persone che scelgono. Con una persona che è sulla strada, è la stessa cosa? No, ma non ho capito, Mirella, non ho capito, una persona perché che... Le sbandiere, cioè, io quando le sbandiere, ah, la prostituzione, ma sì, legalizziamola, ma che legalizziamola? Oh, evolviamoci. Ma certo che bisogna legalizzare la prostituzione, è normale. Cruciani, mi scusi, lei parla da maschio. Ma che io parlo da persona questo... normale, da persona pratica. La prostituzione esiste da quando esiste l'uomo e la donna. E allora legalizziamo la prostituzione? Assolutamente. Lei è contro la legalizzazione della prostituzione. Ma io sono una donna. Ce ne faremo una. E chi se ne frega se lei è una donna? Scusi. E lei che se ne frega di lei, mi scusi. Allora non mi ascolti, non mi rompe i coglioni. Scusi, ma Mirella. Ma anche lei, è un gran maleducato. Ma scusi un attimo, signora Mirella, sì, l'abbraccio fortissimo, però il punto è molto semplice. Io sono a favore della legalizzazione. Che c'entra il fatto che lei è donna? Scusi, lei moderi i toni, perché a me mi rompe i coglioni, non me lo dice. Io lo dico tranquillamente, lo dico. No, lo lei non lo può dire tranquillamente, lo dirà sua madre. No, lo dico lo anche a lei, lo dico anche alla mia madre, qualche volta lo dico anche a mia madre. Moderi i toni. Va bene, modererò i toni, però scusi Mirella, abbia pazienza. Lei ha detto, io sono una donna, hai detto, cara, diamoci da tutto. Sì, lo confermo. Sicuro? Siamo sicuri? Ma guardi, non lo so, però fino a prova contraria, se poi invece lei vuol mettere in dubbio. Faccio una domanda, siamo sicuri? Vabbè, diciamo che lei è una donna, no? Mirella, sei una donna, benissimo, tu sei una donna. Ma cosa c'è, perché solo le donne possono avere opinioni sulla prostituzione? Scusami. Solo le donne possono avere un'opinione sulla prostituzione? Rispondimi, solo le donne? Mi scusi tanto, ma in genere il fruitore... Il fruitore? Cioè, esiste anche la prostituzione maschile, però. Lei ha mai visto una donna che si accosta davanti a una macchina? No, quello no, però ci sono anche. Di cosa stiamo parlando? Ci sono anche casi minori di prostituzione femminile, ma comunque lasciamo perdere. Ma cosa c'entra? Io ho tutto il diritto di parlare e dire che la prostituzione va legalizzata. E tu, invece tu la pensi in maniera diversa, ce ne faremo una ragione. Cosa vuoi che ti dica? Che c'è da aggiungere? non c'era da aggiungere niente. Dico che bisognerebbe evolversi. Evolversi, no? Perché per te l'evoluzione è la fine della prostituzione, ma la fine della è come sperare la fine della droga, la fine della, che ne so, la fine dei soldi, tutto è più facile, la fine del, che ne so, qualsiasi, uno può sperare anche nella, no, nella fine della disoccupazione. Sì, certo, speriamo nella fine della disoccupazione, però insomma, i paesi che hanno pensato di poter, no, eliminare la prostituzione sono finiti come sono finiti. E la patonza deve girare. Amici miei, siamo al flop. Daniela Santanchè, ieri sera qui alla Zanzara sui Rom, dichiarazioni, Rom, lei li chiama zingari, dichiarazioni che fanno discutere moltissimo, magari sarà denunciata pure lei, Parenzo, che ne sai, no? I Rom, gli zingari e i furti, beh, forse per te bisogna denunciare, no, tutti, ma tanto ormai tutti. Va bene tutto. Qualcuno mi ha dato oggi, mi ha mandato un filmato, guarda, questo qua è uguale a Parenzo che vuole denunciare tutti, poi te lo faccio sentire, Zingari, bisogna dire Rom, sono zingari e io degli zingari c'ho paura, quando mi si avvicina una zingara penso che mi porti via il portafoglio o che mi rubi qualcosa. I bambini spesso li portano, che sono piccoli, che hanno 7, 8, 9 anni, 6 anni, li mettono sulle strade a rubare e ce l'hanno dentro, ce l'hanno nell'animo. Poi ci saranno anche quelli per bene, ma io li voglio conoscere, io non li conosco. Zingari che rubano ce ne sono tantissimi, non è che lo dico io, lo dico le statistiche. Io non ne conosco zingari che lavorano, io sono stata nei campi Rom e ci ho visto dentro di tutto quello che rubano nelle nostre case: oro, gioielli, rame, automobili. Io nei campi Rom ci sono stata e ho visto tutto quello che rubano gli italiani. Segreteria Zanzara 02 46 52 40 10 02 46 52 40 10, gli italiani e i Rom, ecco uno spaccato. E niente da fare, per quanto riguarda i Rom c'è solo un'unica soluzione: sposiamo la tesi dell'amico di Genova, compattatori, anche perché siamo in troppi, troppa gente in giro, anche perché un popolo che non esiste, una nullità. Egregio dottor Parenzo, con lei vince sempre l'Italia migliore, che da secoli insegna all'umanità intera la sapienza di ogni professione umana. È la più grande gioia della mia vita. Sono Rusa, una Rom. Parenzo, quanti zingarelli hai già ospitato a casa tua? Continua, mi raccomando, e poi mantienile ben bene a base di formaggi francesi, che tu sei maestro in queste cose. E poi mi raccomando, lenzuola pulite, fresche e profumate. E continua, perché loro lo meritano questo, hai capito? Ciao! Parenzo ama gli zingari? Perché probabilmente lo somatizzano. Ma Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari? Non si capisce quello che diceva. Bestie, somatizzato. No, c'era anche una amica Rom, sì, hai sentito, no? Ma non, ma bestie ignoranti. Ma sono, perché bestie ignoranti? Perché sono, perché non puoi far passare per il paese, qui sono bestie, uno spaccato ignoranti. Spaccato di paese spaccato reale. Di bestie, le bestie esistono. Scusa, ma quando c'era Radio Radicale che faceva Radio Parolaccia, tutti dicevano che era uno spaccato del paese. Ma 20 anni fa, sì. Questo è uno spaccato del paese, arrenditi, è così. Io lo sto dicendo, ci sono alcune cose orrende, ma le cose orrende fanno parte del paese. Le cose orrende fanno parte del paese. Mondo ci sono delle bestie, perché uno che chiama per dire ancora compattatori, per parlare di forni crepe, per me sono delle bestie. Poi per carità, ho capito che non ci si può più indignare. Eddie da Modena, e viva 80... le bestie. No, chi va, indignati pure, chi ha detto che non ti deve indignare? Ma no, ma non si può più Eddie dire Modena, è normale dire ste robe ormai, cioè... Ma chi ha detto che è normale? Che dici? No, ormai è talmente normale dire questo, che quel che dico io sembra normale, capito? Ma chi lo sostiene? Ma Eddie da Modena, ma io, figurati se dico. Perché va tutto bene, quindi non è normale. Detto che va tutto quindi bene. Diciamo che è normale dire delle bestialità. Vabbè, simili. Eddie da Modena, vai, Eddie. Posso parlare? Dimmi. Allora, io hai tirato fuori tanti argomenti questa sera che l'unico che ho detto alla vostra segreteria è quello dei pedofili. Sì. Per me i pedofili vogliono usarci come pezzi di ricambio. Uno ha bisogno di un cuore, gli dici da quello di un pedofilo. Ecco un altro. Uno ha bisogno di un polmone, gli diamo quello di un pedofilo. Sì, ma non funziona anche così. La questione dei trapianti non funziona in questo modo. No, per ma deve cambiare tutto. Quelli lì, io se mi mettono in galera perché sono andato a gnocca. Magari se tu sai che l'organo viene da un pedofilo, manco lo vuoi forse. Non lo so. No, beh, se ce n'ho bisogno mi adatto. Però il problema è che se mi mettono in galera, ci sto 30 anni perché sono andato a gnocca, quando vengo fuori mi continua a piacere la gnocca. Allora, io sentivo una volta una trasmissione. Cioè, non ho capito, spiegami, non ho capito. Se tu sei andato in galera 30 anni perché ti è piaciuta la gnocca, non è che vai per quello in galera, perché sei pedofilo, vai in galera. Appunto, allora, se mi metto in galera per 20 anni in astinenza, sì, ho capito, e vengo fuori, mi continua a piacere la gnocca. Se vado in galera perché sono andato con un bimbo, quando viene fuori mi continua a piacere il bimbo. E infatti va quello, io ho sentito una trasmissione sulle mani da Caino che volevo mangiare la radio, perché dicevano dobbiamo insegnare al bimbo per paura del lupo. No, bisogna insegnare al lupo. È il lupo che deve aver paura. Ma scherziamo? Io ho un bimbo piccolo. Sì, sì. Se me lo toccassero, io dopo non ho più paura. Questo è un caso, questo è un caso, sì, ma questo d'accordo, questo lo dicono tutti i padri, questo è ovvio, no? Evidente. Anch'io se ci penso, che c'entra, questo è chiaro. Evidente. Però questo è un caso limite oggettivamente, no? Cioè questo tizio pedofilo che violenta il bambino di 11 anni, il proprio figlio di 11 anni, dopodiché lo offre pure agli altri, cioè è una roba indicibile. È come violentare una ragazza e andare a puttane. No, ma capisci che è talmente disumano. Vado a puttane, ma perché devo violentare una ragazza? Ma è talmente contro natura che non è neanche commentato. Però questo è contro la natura, no? Questo Eddie da Modena dice che questi qua vanno usati come pezzo di ricambio, sì, i pedofili. Però idiota, è facile, dai, dirlo. Ti ha dato dell'idiota, ma... intanto, Eddie. Ma sì, però... ma è evidente, no, uno che. Ma senz'altro mi daranno dell'idiota di tutto. Ma che vuol dire pezzi di ricambio? È come dire così, voglio pezzi di ricambio. Che vuol dire? Uno non è che prende uno, lo fa a pezzi e poi usa il cuore e il fegato per fare i trapianti. Dai, Eddie, ma dove stiamo? Che non potrà mai. Non potrà mai riparare al danno che ha dato alla società. Questo è ovvio. Senza dover salvare non una vita, 10 vite. E allora gliele facciamo salvare tramite trapianti. Parenzo, c'ha la testa che se ce l'avesse un peso si affoga. Non si può ragionare sempre col buonismo. Non ho capito la testa di Parenzo che c'entra. Scusa, la testa di Parenzo che c'entra. No, perché mi ha dato dell'idiota. C'ha la testa che se ce l'avesse un peso si affoga. Si affoga. Perché con tutto questo buonismo tra i rom e tutto, ma non noi c'è buonismo, sempre non c'è culo. Nessun buonismo, anzi, non c'è nessun buonismo. Vabbè, no, Eddie, c'è il buonismo. È il contrario del buonismo. Scusa un attimo, però, Eddie, non è che se uno non dice che i pedofili vanno usati come pezzi di ricambio con gli organi, se uno dice un'altra cosa, significa che è un buonista. Ma di che parliamo? Dai, no, tu dici una cosa inapplicabile. Tu li vuoi ammazzare, pagare... punto. Vuoi ammazzare i pedofili, questa è la realtà. No, ammazzare. No, io... ammazzare e usare gli organi, perché ma per usare gli organi devi ammazzarli, no? Quando parlavate l'altra sera che se uno mi viene a rubare in casa devo sparare per aria, ma se devo scegliere tra loro e me io scelgo loro, ma è logico, io devo essere consapevole del danno che do e di quello che ne rispondo. Ma questo qua danno. In linea generale d'accordo, però nel concreto tu dici che davanti a questo caso enorme e abnorme di Napoli, tu dici i pedofili come questi vanno usati come pezzi di ricambio, che vuol come dire che vanno ammazzati e usati gli organi. Questo non si può fare. Tu sarai incazzato, ma non si può fare, non si può fare. Prima cioè lo faceva Hitler, cercava di farlo il signor Hitler, cioè no, questo è il punto. Hitler ha fatto di peggio come l'ha fatto Stalin. Vabbè, guarda, quello è un altro discorso, però. Io ti voglio dire una cosa. Dimmi, che voglio cercare di essere imparziale perché a casa mia. Imparziale, che vuol dire imparziale con i pedofili? Non bisogna essere imparziale. No, non imparziale, voglio dire che non voglio fare né destra né sinistra. A casa mia ci ho avuto a mangiare. Non c'entra niente destra e sinistra. Sono andato a mangiare con Bossi, quindi per dirti che sono. Che vuol dire che sei andato a mangiare con Bossi? Sono andato a mangiare con Bossi 3 volte perché ero della Lega. Vabbè, sei andato a mangiare con Bossi. Beh, allora, ma che vuol dire? Sei passato dai pedofili a Bossi? Che vuol dire? A casa mia, perché era amica di amici. Ma che c'entra adesso? No, faccio per dire che non voglio fare né il fascista né il comunista. Ma qui non c'entra niente destra e sinistra. Voglio andare ad Ancona, Norberto, vai. Buonasera, in realtà sono perplesso, io avevo parlato in segreteria solo del fatto che... Norberto, vai tranquillo, dimmi che cosa vuoi dire, forza! Abbiamo chiarito, ieri sera abbiamo chiarito una volta per tutte, come cittadino italiano ho avuto un primo ministro che andava a zoccole a casa propria. Cioè in che senso, scusa, spiegami? Eh beh, se Coppi ha detto che c'era la prostituzione a casa propria, ma quello allora... fa il difensore di Berlusconi, però cioè, fa... appunto. No, sì, sì. Quindi ammette che c'è stata prostituzione, cioè non dice che no. Forse visti privati, pubbliche virtù di un quarantenne con una ragazza trentenne, ancora, ma io come. Sì, ma non è, siccome non è punita la prostituzione, No, però. No, vabbè, dunque, la conclusione tua qual è? Non ho capito. Il giudizio è che passerà la storia che abbiamo avuto 20 anni di un presidente del Consiglio che era una persona inadatta a governare un paese. Perché qualcuno era adatta, perché l'hanno votato. Perché faceva le orge, perché cosa? Perché uno di 75 anni che va con le ragazze anche maggiorenni di 20 a me francamente mi sembra perlomeno inadatto. Bene, Armando ma è un Palermo tema superato anche Armando questo, Palermo, beh insomma c'è il processo di Bari, non è poco superato. Continuavano a votare Berlusconi anche durante le inchieste giudiziarie. Sì, vabbè, questo che c'entra adesso? No, c'entra per dire che oggi di fronte alla soluzione importante di Berlusconi, sì, l'unica domanda che uno secondo me dovrebbe farsi è ma la soluzione gli restituisce la leadership e i voti ad oggi? Vabbè, ma quelli sono discorsi politici che fanno tutti. Ah, no, vabbè. Cioè, allora ti spiego. Get your motor running. Caro Parenzo, chi ti ho invitato? Beh, in una giornata come questa, il giorno dopo, no, non devi tremare perché è una persona rispettabile, non è uno dei nostri soliti mostri. Poi vanno tutti bene i nostri ospiti, vanno tutti bene perché sono ospiti della Zanzara, dunque vanno tutti benissimo, chi più, chi meno. Grande ritorno, quanto tempo, avvocato Piero Longo, buonasera. Buonasera a lei e anche a Parenzo. Come andiamo? Dov'è? La sentiamo, la sentiamo male? Da dove, caverna, da dove ci sta? Da dove l'abbiamo? Una Roma. No, ma dico, dov'è? Caverna, è il viva voce, in stanza? No, sto parlando direttamente nel microfono. Numero fisso? No, telefonino, vabbè. Eccoci qua, no, forse. Buonasera, avvocato, ben risentita, caro. Caro amico. Allora, avvocato Longo, io voglio capire una cosa, ma lei che è sempre freddo, impassibile, freddissimo. Si è un po' emozionato nella giornata di ieri sera quando arriva la sentenza o no? Proprio ha fatto qualcosa, ha avuto un moto. Io direi anche eccitato. No, beh, eccitato addirittura, eccitato. Beh. Non credo che sia eccitato, avvocato. No, non è il mio costume citarmi, sono 70 anni tra l'altro. Guardi, avvocato, praticamente non si sente citarsi, no, non si sente nulla. Adesso riproviamo a collegarci, vai. Roberto da Milano, vai. Buonasera, io volevo dire a Parenzo una cosa. Sì. Che se accetta l'idea che il pedofilo, volevo parlare del pedofilo napoletano, sì, come no. Se accetta l'idea che il pedofilo è malato, e allora di fatto per lui non è punibile perché è colpa della malattia. Ho detto che è un criminale malato, ma io c'è un problema. No, ragazzi, Roberto, no. non è che Parenzo vuole che il pedofilo sia libero di andare dove vuole solo perché è malato. Appunto. Ha detto che c'è insieme che al malato crimine, e insieme deve al crimine commesso in galera, però. Insieme al crimine c'è anche la malattia, cioè, secondo Parenzo. Sì. Sì, sicuramente sì, uno malato. Talmente fuori dalla natura umana, una roba così che specie di un in vabbè, ma lei modo che di un farebbe? Padre, Roberto, ma... che farebbe lei? Non mi spieghi che farebbe? Guardi, non lo so, perché se l'idea è che lui è malato e poi in un certo modo si possa curare, evidentemente, ad esempio, io non accetterei che una persona, diciamo, curata con quel tipo di patologia potesse diventare, non lo so, il supplente, quello che fa le ripetizioni a mio figlio. No, ma guarda, mi sembra un caso, cioè uno che è accusato di una cosa di questo tipo, mettiamo che sia ritenuto colpevole o si dimostri che sia colpevole, dubito moltissimo che torni libero e che sopravviva. Allora, vediamo se siamo più fortunati. Va, avvocato? Mi sente? Sono qui. Eccoci, si sente. Sono stati allora, comunisti, scusi. Si è emozionato o no ieri sera? Eccitato okay, diceva Parenzo. No. Ero molto curioso. Vabbè, curioso quello, adesso lei riduce tutto. La curiosità da vari gradi, c'è una curiosità superficiale e una curiosità profonda. Ero convintissimo che non potesse essere modificata la sentenza. Ma era sicuro prima o no? Aveva dei dubbi? No, si è mai sicuri quando un giudice va in camera di consiglio. Però l'esperienza mi diceva, c'era soltanto una variabile. Qual era? Era il nome dell'imputato. Ah, e la variabile è il nome, cioè Berlusconi poteva far venire in mente a qualcuno, a qualcuno di quei giudici, no? E qual era? Chiunque altro si fosse chiamato Giorgio Franco, sì, io non sarei stato neanche curioso, avrei detto non è possibile, sì, andrà benissimo. È andata bene. Vabbè, senta, io voglio capire una cosa, ma molti dicono che addirittura l'ha detto oggi un suo ex collega no, perché era magistrato, insomma uno che... appunto, Emiliano. Sì, Emiliano, ex sindaco di Bari, che i PM dovrebbero addirittura chiedere scusa. Secondo lei Boccassini, insomma quelli che hanno istruito il processo, i PM, devono chiedere scusa a Berlusconi? No, io non credo che debbano chiedere scusa, devono comportarsi in futuro in maniera diversa da come si sono comportati nei confronti di Berlusconi, per esempio, nei modi e nei toni, non tanto né un'accusa che era stata poi in un certo modi e toni, che significa? Che vuol dire? Evitata. Modi e toni, perché noi non dimentichiamo che la Procura della Repubblica aveva chiesto e ottenuto il rito immediato, che significava che loro erano convinti addirittura che ci fosse l'evidenza della prova, sì, e che un giudice ha detto sì, c'è l'evidenza della prova e quindi saltiamo l'udienza preliminare, rimandiamo immediatamente di corsa davanti al tribunale. Per cui non devono chiedere scusa ma comportarsi meglio. No, comportarsi meglio. Fare un esame di coscienza, che ne so, andare a ripetizione, che devono fare? Devono fare quello che ha detto il neo Presidente della Repubblica, che ha detto che i magistrati devono avere equilibrio e devono avere attenzione. E invece? E invece la Boccassini da che cosa? Da cosa è stata spinta la Boccassini? Da odio? No, non credo che sia stata spinta da odio, ma da eccesso di zelo. Che vuol dire? Come eccesso di zelo? Sì, eccesso di zelo. Ma guardi, il problema non riguarda i problemi. Ma non è che si perseguono i reati per eccesso di zelo, però? No, come si perseguono? Come si perseguono? Vabbè. Si perseguono, si possono perseguire in molte maniere. Ma uno che ha perso un processo del genere, avvocato Longo, deve lasciare la magistratura o no? Ma nemmeno per sogno. No. Sono cose che possono capitare. Può capitare a tutti. Ma problema, lo dici, guardi, beh, hanno fatto cadere un governo, dicono alcuni, eh? Hanno partecipato a far cadere un governo, ma quello non era, credo, l'intenzione. L'intenzione era di arrivare a mettere alla berlina Silvio Berlusconi, sì, attraverso un meccanismo che avrebbe potuto e dovuto essere diverso, secondo il mio punto di vista. D'accordo, però mettere alla berlina Berlusconi, però scusi, interrompo, avvocato, significa sostanzialmente, uno deve anche arrivare alle conseguenze del suo ragionamento, dice, volevano mettere alla berlina Berlusconi, poi Berlusconi è caduto anche per questa cosa qui, dunque hanno fatto quasi un colpo di Stato. Ma no, queste sono parole forti, ma stavo dicendo, se ne mi l'avete usate voi, però scusi. Il problema non è tanto il pubblico ministero. A prescindere dai modi, perché il pubblico ministero chiede, sì, poi c'è chi decide. Vabbè, quello primo grado. Il pubblico ministero può chiedere quello che vuole, sì, e poi c'è un giudice che dovrebbe essere super partes, equilibrato, con una dose di buonsenso, che deve decidere. E allora l'errore non è stato tanto del pubblico ministero, a mio parere, del giudice di primo grado, è stato di giudice di primo grado, ma questo non è un'opinione mia, è un'opinione del Corte d'Appello, vabbè, che ha capovolto la... Ma questo significa che la giustizia italiana funziona? Che è al contrario di quello che voi avete sempre detto? Voi, insomma, no, guardi, la giustizia umana non funziona così per definizione. È imperfetta per definizione. Ma per forza di cose, perché è fatta degli uomini e gli uomini sono... imperfetti. Scusi, però come si può dire? In primo grado, quanto gli avevano dato? 7 anni? 7 anni. Cioè 7 anni in primo grado e poi assolto in 2 gradi di giudizio. E uno può dire, quelli di primo grado sono impazziti, erano anti-berlusconiani di ferro. Io ho esperienze personali, professionali, di condanne all'ergastolo in primo grado e assolto in appello. Dunque tutto normale, lei dice, tutto normale. È abbastanza fisiologico. Tutto fisiologico. Tranne il fatto che lei dice Boccassini e Anci volevano mettere la berlina a Berlusconi. Parenzo ama gli zingari perché probabilmente lo somatizzano. Lo somatizzano. Sbagliato parola. Voglio chiedere all'avvocato Piero Longo, che è in collegamento con noi. Che non ama gli zingari, credo. No, non lo so, sì, magari li ama pure gli zingari. Cioè, che pensa dei Rom, che siano alla feccia della società, avvocato Longo? No, per nulla. Non penso che siano alla feccia della società. tutta. Bravo. Comunque, se mi chiedete se amo i rom, io è difficile che ami qualcuno. Beh, lei è molto difficile. Di arrivare manco sua moglie ama? Non sono sposato. Non è sposato. Ah, non è sposato, è vero. Bellissimo, è difficile che ami qualcuno. È difficile che lei ami qualcuno. Perché è così difficile che lei ami qualcuno, avvocato? Perché è molto impegnativo amare qualcuno, sa? Bisogna essere rispettosi, bisogna essere attenti, bisogna essere presenti, bisogna essere veri amanti. Ma lo sai, Parenzo, che ha ragione l'avvocato Longo, però. Cioè, in questo è molto... Non dica queste cose a Parenzo, che poi somatizza. No, beh, è molto simile a me. Bere, perché una siete due egotici. No, perché amare è una fatica enorme. Amare l'avvocato Longo. Lei ama se stesso, sì, beh, sicuramente. Certo, molto. Dico, lei ama se stesso, ovviamente. Ma perché... No, mi sono appena simpatico. Beh, addirittura appena simpatico. Senta, ma lei, se fosse stato nel benzinaio Stacchio, avrebbe sparato quel rapinatore rom? Ma io no, mentre stava facendo la rapina, sì, certamente avrei sparato prima in aria e poi alle gambe, come al solito. Come al solito? Come la vecchia versione di Cabobo, sì, di Cabobo, come non ricordiamo. Beh, certo, venne fuori un casino tremendo. Comunque, ha fatto bene. E certo, adesso è diventato un eroe questo Stacchio, questo signore. Non vuole neanche essere poverino. Lui non vuole nemmeno essere. Hanno pure cercato di candidarlo alle elezioni, lui dice di no, eccetera. Ma se entrassero dentro casa sua, no? I ladri, si parla molto di questo, in Veneto ci sono un sacco di furti, la gente reagisce, eccetera. Lei cosa farebbe? Sparerebbe? Intanto è difficile che vengano i ladri a casa mia, perché c'è un'antica tradizione recentizia, sì, che a casa di penalisti i ladri non vanno. In che senso, scusi? Perché no, non vanno. Sanno che lei è un penalista e non vanno. No, non io, anche gli altri penalisti. Non si va a casa dei penalisti. Vabbè, ecco, perché non porta fortuna. Non porta fortuna, ma mettiamo che vengono a casa sua. Sì. Vengono a casa sua. Lei, se si trova di fronte un ladro, siccome ha delle pistole a casa lei, no? Lo sappiamo. Che fa? Spara? Gli intimo di uscire, a voce? Sì, certo. Si perde qualche secondo. Io già però, con questa tardezza ho paura. Potrebbe intimare qualcuno di uscire. Ho capito, però sì, si dice: scusi signor ladro, posso uscire? No, fuori di qua, si dice così. Fuori di qua. Parenzo, che impari. Poi? Fuori di qua. Poi se non fa il gesto di voltarsi e di scappare immediatamente, si spara un colpo in aria. Colpo in aria, sì, poi? E poi la solita gamba. E poi perché la solita gamba. Perché però scusi, la solita gamba. Non l'è mai immagino non le sia mai successo, no? No, non mi è successo, ma sono pronto a farlo se dovesse capitare. Pronto a sparare un ladro dentro casa, vabbè, ma questo certamente qua era anche è la voce, anche come dire, anche alla figura, però. Direttamente anche alla figura, no, alla figura se è armato e mi spara, beh sì, cioè, se è armato, se è allora armato arriva Parenzo a casa mia, sì, armato. Non gli sparo, poverino, perché lui è disarmato per definizione, sì. Però arriva per esempio qualcuno, un cugino di Parenzo, sì, che ha una brutta faccia e una pistola, sì, oppure sì, un fucile a canne mozze, sì. L'intimazione dura un attimo e poi se la canna non si abbassa si spara subito. Certamente. Ma bisogna essere armati, secondo lei è giusto che la gente che si un armi invito a armarsi lo farebbe o no? Ma perché uno non dovrebbe essere armato se è capace di intendere, di volere? Perché c'è lo Stato. Se ha necessità di essere armato, se sa usare l'arma e se è equilibrato. Cioè i veneti dovrebbero armarsi di più di fronte a questa ondata di criminalità e di furti nelle case, cioè... Non necessariamente. E che devono basta fare? Basta che i servizi di sicurezza che vengono approntati dallo Stato siano sufficienti. Vabbè, mettiamo che Parenzo, per esempio, se abitassi in una villa, sì, della periferia di Padova. Sì. No, non è in periferia. No, ma per caso. Sì, sì. Mettiamo, sì. La mia non è avrebbe la pistola, ma... perché lui non ama le armi, no. Però magari un non so, un rondello, un vabbè, comunque da baseball adopererebbe, o forse no, o forse farebbe come fanno certi che si chiudono in una, sì, esatto, fanno finta di nulla. Sì, e lui dice che io mi chiudo, io sì. Proveresti io a chiamare la polizia, dice. Chiuderei, sicuramente sì, mi chiuderei. Non useresti le armi, non no, useresti. Certo, ma questo è un atteggiamento. E vabbè, che mica lo possiamo. Avrei troppa paura, insomma. Senta, avvocato Longo, io però voglio chiedere una cosa. Lei difenderebbe un pedofilo, ma siccome oggi c'è questo caso clamoroso di Napoli, di un pedofilo. Ma certo, dunque, io sono come un medico. Sì. Quando arrivano da me sono ammalati. Sì. Io non vado a vedere per la ragione per cui si sono ammalati. Sono ammalati perché lo sono effettivamente o perché qualcuno crede che lo siano. Io non posso non curare uno che viene da me. Mm. posso respingere un cliente se non intende seguire la linea difensiva. Vabbè, certo, dunque difenderebbe anche i pedofili, insomma. Ma no? Certamente. Ho difeso assassini perché non devo difendere i pedofili, sì. Se mi capita. Neonazisti, ha difeso di tutto. Ma nazisti, certo. Non mi è capitato. Comunisti, sì. Qualcuno per qualcuno per i pedofili invoca la pena di morte. Lei è d'accordo? È evitata la pena di morte. Vabbè, d'accordo, sì, sarebbe, insomma, per introdurla ancora. Sarebbe per introdurla ancora in alcuni casi estremi, non si o no? Può, bisogna cambiare la Costituzione. Vabbè, per l'amor di Dio. Il suo pensiero, però. Ho perso un sacco di tempo per fare questa modifica della Costituzione. Vabbè, ma secondo lei andrebbe cambiata, cioè, sarebbe da introdurre per alcuni reati gravi la pena di morte in Italia o no? No, non si può introdurre la pena di perché morte. Non si possa, ma la ragione fondante perché non si introduce non si deve introdurre la pena di morte è il fatto che è sempre in agguato l'errore giudiziario. E dunque un errore più grave, un errore su... Esatto, un errore di uno che ogni tanto mettono fuori qualcuno che è stato dentro 10 anni, 15 anni, sì, sì. Anche in Italia è capitato. Però non si può aprire una tomba e far risuscitare... Ah no, quello non c'è dubbio. Su questo sono drammaticamente d'accordo e non vorrei danneggiarlo con l'avvocato Longo. Drammaticamente. Senta, per quello Lorenzo, che... lei avanza un caffè, corretto da me. Senta, avvocato Longo, però per quello, sì, che... quello torniamo... di Sindona. Torniamo... Non mi fido, caro. Torniamo a Berlusconi. Mio. Per quello che è successo, dovrebbero rimborsarlo? Cioè dovrebbero restituirgli un po' di quattrini? No, non è previsto dall'ordinamento, perché non ha subito... Però secondo lei dovrebbero, cioè lo Stato gli dovrebbe ridare un sacco di soldi per quello che ha subito o no? No. No, no, perché non è previsto. Vabbè, d'accordo, che non è già previsto, d'accordo, però che magari dovrebbe essere previsto. Ma questo è un altro discorso, ma non ci sono abbastanza soldi per provvedere a questo. A questo, se cioè... lei immagini, guarda, vi dico una sola cosa. Una persona viene messa sotto processo. Sì. Il processo dura anni. Sì. E non può nemmeno scaricare le spese legali, neanche se è assolto, perché il fatto non sussiste. Cioè, ma quanto è costato a Berlusconi? Lei ha fatto un calcolo quanto è costato in termini di denaro a Berlusconi questo processo Rubbi? Adesso al di là delle vostre parcelle, no, anzi compreso, milioni di euro. Quanto sarà costato? 10 milioni di euro? Ma per amor di Dio, ma nemmeno per sogno. Sarebbe costato centinaia di migliaia di euro se fosse stato condannato per le spese legali, spese di intercettazioni, eccetera, eccetera. No, a lui personalmente, Berlusconi, quanto un milione di euro sarà costato? Beh, di più. Ma spese legali. Cosa dice? Ma... voi sparate cifre alla pena di Segugio, come capita spesso, più spesso per la verità a Parenzo che alla lei. Cazzo di cane. Calmi, con le cifre. Calmi. Senta, però questa frase di Coppi mi ha fatto pensare. Perché gli Coppi? Lui è Longo, gli cita Coppi. No, perché Coppi, bisogna dire la verità, è arrivato Coppi e Berlusconi è stato assolto. È un'analisi un po' superficiale, avvocato Longo, scusi se insisto su queste cose. È arrivato Coppi e Berlusconi è stato assolto. Come mai? Sarà un caso? Qualcuno l'ha detto. Per la verità, come voi sapete benissimo, noi Ghedini ed io abbiamo dovuto lasciare la difesa diretta perché abbiamo Rubi avuto Terra, un regalo dal tribunale di Milano. Siete indagati nel Rubi Terra. Sì. E allora abbiamo nominato due straordinari sostituti, che sono il professor Di Nacci e il professor Coppi. Vabbè, però sarà un caso, è arrivato Coppi e Berlusconi è stato assolto. È più bravo di voi? Guardi, più bravo di me, senz'altro. Più bravo di Ghedini, ho qualche dubbio. Ha qualche dubbio, Cioè, Ghedini che signore è... cioè, che è Longo. Non si può dire che Coppi è un fuoriclasse, è più bravo di tutti noi. Alla fine, ce l'ha fatta lui dove noi non ci siamo riusciti. Ma non ce l'ha fatta lui. I motivi di appello per cui sono stati assolti sono stati scritti da Niccolò Ghedini e dal sottoscritto. Ah, per cui l'appello l'abbiamo scritto noi. Dunque non Coppi, diciamo, c'entra poco. Diciamo nella soluzione di Berlusconi. No, poi è andato a discutere con l'abilità del professor Coppi, che tutti gli riconoscono. E... però l'appello l'abbiamo scritto noi. Non c'è dubbio. Però che lui ha detto questa frase: che ad Arcore avvenissero fatti di prostituzione non lo contestiamo nemmeno noi difensori. Cioè, ad Arcore avvenivano fatti di prostituzione, ha detto Coppi. Nei fatti di prostituzione a cui si riferisce il professor Coppi, io non ho neanche piena contezza del dunque contesto. Possiamo dire che avveniva, diciamo, come dire, c'erano fatti di prostituzione ad Arcore, no? Bisogna che ci intendiamo sul concetto di prostituzione. Beh, perché se la prostituzione è un concetto giuridico oltre che un concetto di tipo morale. Avvenivano o non avvenivano questi fatti? Secondo me non avvenivano. Se poi Coppi, il professor Coppi, serviva questo argomento in Corte di Cassazione, ha fatto bene ad adoperarlo. Ha fatto bene perché poi è arrivata una soluzione, dice, è tutta tattica difensiva. Ma come mai, so che entro in un tema che è quello nel processo, che lui è coinvolto, come mai però così sembra dai racconti, poi questa Rubi c'ha un sacco di soldi? Avvocato Coppi, come mai? No, Avvocato Coppi... Non sì, scusi, Avvocato Longo, adesso bene, stavo parlando di Coppi, scusi. Non sono digno. No. Allora, non ho più palle di idea. Non ha più palle di idea. No. Cioè non si, uno si potrebbe fare una domanda. Improvvisamente questa Rubi pare. Ma guardi che io non posso farmi tutte le domande di questo mondo, neanche dei miei processi. Nei processi. Fate le domande. Sì, fate è vero. Domande, non so. Le fate perché siete la zanzara. Vabbè, noi siamo così. Lo so che lei è coinvolto in quel processo. Siete simpaticissimi, sapete. Grazie. Lei dice, bah. No, ma siamo un po'. Personalmente, no, perché? Dunque lei deve persino sopportare Parenzo. Ma quello guardi, quello capisce che quello c'è, devo l'indennità, dire, cuore, c'è l'indennità, l'indennità, c'è l'indennità. Da Senta, Parenzo, è un po' più presente, ogni volta le facciamo la stessa domanda, è un po' più presente in Parlamento, no, oppure poco, sempre poco, assente, visto io ho verificato adesso io poco, sempre la solita cosa, non ha cambiato. No, faccio tutto quello che mi consentono le mie forze. Ma come quello che consentono le sue forze? Non si preoccupi, si prenda questa. Noi ogni volta siamo, la verità è che lei giustamente, facendo l'avvocato di successo, si stufa da morire. Vero che si rompe le balle. E quindi non ci va, questa Avvocato. È la sostanza. Ma avete idea di cosa significa ascoltare per ore gli interventi nella Camera? Ho di capito, gente che urla, che offende. Ma lei è pagato anche per quello, caro il mio. E beh, rinuncia allo stipendio allora, Avvocato Longo. Non posso rinunciare. Sì, per ragioni politiche. In che senso, scusi? Ma perché dovrei, se rinuncio, subentrerebbe un altro. E vabbè, e allora? E allora? Chi entrerebbe? Che problema? Chi le dice che sarebbe un berlusconiano fedele? Ah, è quello, no. Dice. Ah, sì. Bello, no, questo. Per verità. Comunque, guardi, ho l'87% di assenze. Vabbè, non è manco tra i peggiori. 87, no, ma sono così presente. Sì. Devo fare qualcosa in proposito. Sì. Ma scusa, volevo capire questo. Quanto costerebbe prenderla come avvocato? Però mi scusi, ma veramente si rompe così i coglioni alla Camera? Io, in modo esplicito, veramente si rompe così i coglioni alla Camera? Ma per l'amor di Dio, anche di più. Di più. Dunque, voglio rispondere però a Parenzo. Parenzo, sì. Io le mando un buono per un processo primo, secondo e terzo grado. Grazie. Perché noi possiamo fare i processi anche gratis. Ma perché di più, scusi? Perché di più? Cioè, poi veramente si rompe le... C'è una cosa insopportabile andare alla Camera. Veda, uno dei disastri della Camera è il fatto che c'è la trasmissione in diretta televisiva. E dunque? E uno quando prende il microfono, sì. Non tutti, ma molti, sì. Prende il microfono perché gli vedano gli elettori e va bene, sì. Ma la mamma, la zia, l'amico del bar, e che dicono cose sopra cose che non hanno costrutto, però sono apparsi in televisione. E siccome la televisione, come sappiamo, se non appari non sei, ecco come funziona. E dunque? Serve solo ad andare a farsi vedere in televisione, il Parlamento dice? No, bisogna distinguere tra i lavori in commissioni e delle commissioni. Comunque lei lo abolirebbe il Parlamento, diciamo no, la verità. No, non lo abolirebbe. Non l'abolirebbe, per carità. Il Senato sì, lo abolirei totalmente. Il Senato è stato abolito. E dunque ha fatto bene Renzi. Benissimo, Renzi è molto bravo. Molto bravo. Lei è più renziano di Berlusconi? No, non sono affatto renziano. Renzi è un politico che sa fare molto bene il suo mestiere e questo va dato atto. Ma dopo Berlusconi lei voterà per Renzi? Potrebbe votare per Renzi dopo Berlusconi? Mai. È di destra lui. Vabbè. La Lega forse potrebbe. Ma nemmeno. Salvini. No. Sì, c'ha un aplomb inglese che mi si confà proprio. Io ce la vedo bene, proprio, però. Cioè, lo considero un buzzurro. Lo considero un mezzo buzzurro. No, mezzo. Tutto? Totale. No, nemmeno tutto. No, è un altro da sé. È un altro da me comunque. È un uomo politico, anche lui molto bravo, non è mica così. Però un buzzurro. No, non credo. No, me l'ha detto lei prima, scusi. No, non l'ho detto io. Guardate che voi registrate, ma poi rimane tutto. Tutte le immagini. No, non è un buzzurro. È l'avvocato Longo. Fa il buzzurro. L'avvocato Longo che sostituisce i suoi meravigliosi gessati, le sue meravigliose cravatte di Hermès e quant'altro. Stupendo. Con una maglietta verde con scritto improperi. Esatto, con una felpa con sopra scritto. Senta, un'ultima cosa, il vitalizio ai condannati, compreso Berlusconi, va tolto? Bisogna distinguere i vitalizi. I vitalizi sono fatti con gli accantonamenti che si fanno mentre si è in Parlamento. Vabbè, sì, quello lo sappiamo. E quelli bisogna che siano corrisposti. No, poi si può da adesso fare una nuova legge dicendo che gli accantonamenti che si fanno per le persone che poi sono condannate a un certo tipo di reati, a una certa sentenza, vanno... No, ma secondo lei in generale i condannati vanno, gli vanno tolti il vitalizio o no? Allora, dipende dalla sentenza. Con il codice originario del fascista era previsto che chi veniva condannato a una certa pena per certi reati perdeva la pensione. Dopodiché è intervenuta la Corte Costituzionale e ha detto: guardate che non si può togliere la pensione, perché la pensione è un diritto acquisito. Ora, la storia di diritti acquisiti, qui spiegherò quando prenderò il caffè con Parenzo. Non è proprio una cosa così. Insomma, bisogna lasciarli questi vitalizi ai condannati, cioè sono diritti acquisiti, dunque bisogna lasciarli così come sono. Li hanno maturati. Vabbè, quello sì, certo che li hanno maturati, non è una contro la legge, cioè, però in quanto condannati, avendo commesso dei reati magari anche contro lo Stato importanti, uno potrebbe dire non hanno diritto al vitalizio, invece no. Ma dice... perché? Perché sono... guardate, hanno il dovere di risarcire lo Stato se hanno commesso i reati. Vabbè, d'accordo, però il vitalizio bisogna darglielo perché hanno versato dei soldi, le dice. Certamente, questo è il punto. Questo è il punto fondamentale, io capisco sempre tutto alla fine, non c'è niente da fare. Poi devi spiegarlo a Parenzo. Devo spiegare a Parenzo. Parenzo, io l'ho vista migliorata oggi. È migliorato, Parenzo? È migliorato. Sì, però mi dispiace perché non è abbastanza sulfureo. Sì, un po' sulfureo. Cosa vuole che le dica, avvocato? Avete avuto questa straordinaria soluzione? Ah, no, questo le volevo dire, però. Cosa? Invece che è una questione dire? Politica. Abbiamo chiuso le poche. Che devi dire? No, perché voglio sapere da Longo se la soluzione, quello che ti dicevo prima, non è che automaticamente restituisce leadership e voti. Questo è il oggi. No. Ecco. Cioè, Berlusconi si candiderà ancora come leader del centrodestra. Mi dica la verità. Oggi. No, non si candiderà più come leader del centrodestra. Berlusconi. Perché non dovrebbe candidarsi come leader del centrodestra? Vabbè, ma c'ha la sua età, signor Longo. Avvocato Longo. Cosa c'entra? Beh, come cosa? Giovane non capisce una pippa. Io ho 70 anni, capisco molto meno di Parenzo. Vabbè, ma dai. Senta, ma sono curioso, ma secondo lei Mussolini una cosa giusta l'ha fatta nella sua vita politica, nella sua avventura politica, o no? Una. Nella vita politica o nella vita pratica? No, nella vita Mussolini, sì, per l'Italia, ha fatto qualche cosa di buono? Sì, probabilmente ha fondato l'IRI. Non era una brutta cosa. Non era una brutta cosa, però c'è anche qualcos'altro, che ne so, le riforme agrarie, che ne so, le riforme... Sì, ma quelle possono essere oggetto di... Però ha fatto l'IRI, una cosa buona l'ha fatta, una se la ricorda, diciamo, di buona, l'IRI, vabbè. Avvocato, grazie, buona serata. Grazie a voi. Buona serata, mi raccomando. Mi raccomando, non goda troppo per Berlusconi, la vedo sempre impassibile, stesso sguardo, stessa voce. Qualsiasi cosa accade, lei ha la stessa identica voce, è una cosa incredibile. Ma guardi, io non è che sono impassibile, sono attonito. Attonito. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Non dica queste cose a Parenzo che poi somatizza. Stefano Lodi, vai Stefano, vai. Ciao, volevo intervenire a proposito di quale pena è commisurabile ai fatti del pedofilo. Di Napoli, sì. Sì, di Napoli. Secondo me è la castrazione quella chirurgica. Castrazione chirurgica, sì. Proprio l'evirazione chirurgica reale, non la castrazione chimica che è una cosa che... È uguale, non è che cambia, Cioè, no, lei vuole tagliare direttamente il pisello con le forbici, diciamo? Sì. Con forbici o con un altro metodo? In modo che perde la sua capacità penetrativa. Come? No, scusi, sodomizzarlo che vuol dire sodomizzarlo? Non ho capito. No, sodomizzarlo, sfrangiare il pene, sfrangiarlo in modo che perda la possibilità di erigersi, anche perché con la sola evirazione dei testicoli tu gli impedisci di riprodursi, ma una capacità residua erettile può averla ancora. Beh, dubito. Lei, no? Sfrangiamento dei genitali. Evita l'erezione e la penetrazione, non uno sfrangiamento totale. Dai, Parenzo. No, poi io estenderei queste pene corporali anche altri reati, tipo un marchietto indelebile per i ladri su un dorso della mano, la privazione del dito oppositore. Sì. Per chi come usa la lingua per diffamare o dire che state come Parenzo, tagliarne un pezzettino secondo della gravità. Stato islamico funziona così, cioè. Vabbè. Ecco. Stefano, però restiamo ai pedofili. Restando ai pedofili, evitare sfrangiamento dei genitali. Fermi tutti, fermi. Ho capito, non si può fare, però vabbè. E intanto davanti a casa di Berlusconi un giornalista di Santoro, Bertazzoni, si prende del comunista schifoso da un militante. Di dici cazzate. Quello che ti ha spaccato il quadro sulla testa, mi dispiace che ti ha fatto poco male. Hai capito? Sì, sì, te la doveva spaccare la capoccia. Perché hai fatto un'informazione faziosa. Avete tirato merda addosso a Stomo, gli avete fatto 10 anni di torture. Tu e Santoro e la Miciotti. Va bene. Comunisti schifosi. Bravo! Bravo! Sei un comunista schifoso, capito? Grazie. Tu la democrazia non sai neanche dove state a casa. Per voi, ma dannaffa fa il culo, ce l'hai rovinata la giornata. Berlusconi fino adesso, tu e Sartori e quell'altra merda dietro avanti. C'è un'atmosfera, come dire, no? Un'atmosfera tranquilla davanti a Palazzo Grazioli. Davanti a Palazzo Grazioli, gente che se la prende con Santoro, con Bertazzoni, con Travaglio, merda, schifosi comunisti, eccetera, eccetera. Paolo, provincia di Milano, vai Paolo. Ciao, volevo intervenire sul mostro pedofilo. Sì, sì. Perché è vero, l'unica speranza è veramente che si tolga la vita lui stesso. Eh beh, sì, quello lo dico anch'io e non ho problemi a dirlo, cioè. Esatto, ma anche perché non credo, noi non possiamo, secondo me non dobbiamo ammazzare, io sono contrario, nonostante il fatto che, per carità, è una cosa orrenda, sono ancora contrario alla pena di morte. Però è una persona che va spero isolata. Fortemente che si ammazzi. Spero fortemente che si ammazzi. Perché però l'unica giustizia che fino a un po' di tempo fa c'era che in galera si sarebbe preso un po' di randellate, adesso non c'è neanche più questo, perché questo verrà isolato, questo qua. E poi non c'è una certezza della pena, questo fra qualche anno ce lo troviamo fuori. No, vabbè, Paolo, questo mi sembra difficile. Dai, su, uno che ha fatto queste cose qui, addirittura fuori, mi sembra difficile. Comunque. Abbiamo gli esempi sotto il naso, abbiamo Schettino con 32 anime sulla coscienza che ha rischiato di andare all'isola dei famosi. morti. Esatto. Non ha rischiato, è una cazzata, non ci sarebbe mai andato all'isola dei famosi. Figuriamoci se Mediaset ingaggiava o qualsiasi azienda ingaggiava Schettino colpevole di quello che è stato per andare all'isola dei famosi. Dai, su, non diciamo puttanate, dai. Ci siamo vicini, abbiamo. Ma non è vero, non gli è andato, niente. Abbiamo dato Parolisi, non gli è andato l'aggravante della. No, ma quello sono il processo, adesso non ci andiamo a occupare di processi. Abbiamo, che c'entra? No, però non abbiamo una. Lei dice c'è troppo, pena. C'è io troppo per dire. Quello lì fra un po' esce di galera, vedrai. Vabbè, lui ciao. Anno, ho capito, ho capito. Giulio, Roma, ciao, vai, ragazzi. Giulio. Sì, pronto, ciao. Dimmi, dimmi. Io volevo parlare del. No, non vuoi parlare di niente perché non si sente. Giulio, dove sei? Dove sei, Giulio mio? Dove sei? Fabio, Modena, vai, Fabio. Pronto? Dimmi, Fabio, vai. Eccomi, sì. No, volevo dire di quando prima lei stava parlando della legge giusta, secondo lei, per l'adozione dei single, single rispetto a certi parametri, eccetera. Mi chiedevo se stamattina non le avesse per caso sbagliato la pillola in quel centro. Perché di Perché qual è il problema dell'adozione dei singoli? Lei è costretto a recarsi. No, io non prendo nessuna perché pillola e non vado a nessun centro mentale. Vorrei che le avessero dato. Forse lei conosce pillola... bene questi posti perché ci va lei, No, perché ne vorrei che le avessero dato la pillola della banalità anziché quella dell'intelligenza, perché bisogna essere proprio banali per dire una cosa su un argomento così come l'ha detta lei. Cioè qual è il problema? Scusi, perché io ho detto semplicemente che sono favorevole allora, all'adozione ai single. Conto della banalità con cui ha trattato un argomento così delicato, perché quello può darsi, legge, può darsi. Certo che non se ne rende conto, sì. Ma questo non è porta a porta, non è il simposio, non è un dibattito, ha capito? Un individuo possa pregiudicare un diritto naturale di un altro individuo. Questo lei non se ne rende conto. Ma che vuol dire? Chi è che sta pregiudicando cosa? Scusi, Fabio. Può decidere che un altro individuo non deve avere un padre e una madre, che è un diritto naturale, no, come però, il diritto, scusi, di espressione, come pazienza. Diritto. Come no, però. Non ho capito qual è il problema, a parte che è naturale di ognuno di noi avere un padre e una madre. Sì, ma c'è il caso che ci sono bambini questo. Che non ce l'hanno il padre e una madre. Vietare, se uno muore, se il padre muore intanto che la madre è incinta, non c'è una pregiudicazione di un altro individuo su un altro. Questo lì le sfugge nella sua banalità enorme. Lì non c'è stato un individuo che ha deciso che un altro individuo doveva essere privato di un diritto naturale. Lì è stato il caso. Ma mettere per legge che un individuo può decidere che un altro individuo non deve avere un padre e una madre, questo è una. Lei sta ribaltando la cosa. Niente, io ho detto semplicemente. Fabio, io ho detto. Vabbè, lasci perdere la banalità perché qui spesso siamo trash can, non c'entra niente con la banalità. Il punto è un altro, Fabio. Io ho detto semplicemente che non c'è una ragione in casi particolari, in situazioni particolari, eccetera, eccetera, come previsto dalla legge, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, per non considerare considerare come possibilità anche l'adozione di un single, capito? E quindi vuol dire, in altri termini, che un individuo può decidere che un altro individuo non ha diritto ad avere un padre e una madre. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Lo sostiene lei nella sua banalità, perché quando non ha gli argomenti per affrontare l'argomento, lei cosa fa? Banalizza. Allora, va bene, allora ha ragione il medico di darle la pillola per l'intelligenza. Benissimo, non quella della banalità. Bene. È già banale a sufficienza di suo. Va bene, invece lei è così intelligente e così straordinariamente arguto che dice che addirittura ammettere l'adozione dei single invece è banale. Più attento di lei. Sì, infatti lei dice che ammettere l'adozione dei single significa compromettere e minare il diritto di un bambino ad avere i genitori. Ma lei è completamente pazzo. Completamente pazzo. Pillola, ma la cambi lei, perché lei ha la pillola del pregiudizio. Lei ha la pillola del pregiudizio. I diritti delle persone non si calpestano in questo modo. I diritti delle persone, ma non dica stupidaggini. Ognuno ha diritto ad avere un padre e una madre. Non può essere un terzo a decidere. Bene, tu bravo. Non hai diritto ad avere un padre e una madre. Qualche volta è meglio, si è dimostrato che è meglio avere. Lei a suo figlio, quando avrà 20 anni, che le chiederà: perché io non ho una madre? Bravo, un padre, bravo. Perché tu hai deciso che io non dovevo, io volevo. Lei sta ribaltando e sta cambiando non i termini della discussione. Niente. Sono più attento. No, sta ribaltando i termini. Sta ribaltando i termini della discussione. Arrivederci. Un abbraccio forte. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Mi scusi, lei moderi i toni, perché a me mi rompe i coglioni e non me lo dice, ok? Allora, Francesco da Roma, vai Francesco, vai. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Ma a proposito di quel maledetto pedofilo. Sì, sì. Io sono diventato padre da 2 anni e mezzo. Sì. E oggi, quando ho sentito la notizia, mi sono dovuto sedere, mi sono sentito male. Quello mi dispiace per Parenzo, ma è una persona che va presa, è di Napoli, piazza del plebiscito, lo evirano davanti a tutti e lo cancellano dalla faccia della terra, buttato a mare e se lo devono mangiare i pesci, e deve essere cancellato il suo nome completamente, deve sparire. Lo so, amico mio, però non si può fare qui in Italia, eh? Lei dice che dovrebbe essere introdotta questa cosa, siccome uno ha commesso questo atto così incredibile. Questo atto è una cosa così vergognosa, è una cosa vergognosa. Non ci sono cure, prigione, no. Per questo bisogna veramente fare qualcosa di diverso. Rispetto a quello che si sente normalmente. Rispetto alla procedura normale, al corso normale. Quando si toccano i bambini, non si può tollerare. Scusi, lei lo dice per tutti i pedofili in generale, oppure casi come questo in cui non solo quello ha violentato il bambino di 11 anni ma l'ha venduto pure agli altri? Allora, i pedofili non vanno curati, perché è un tarlo che si ha dentro. Certo, vanno condannati su questo. Vabbè, allora non c'è una cura. I pedofili vanno chiusi dentro una stanza, possibilmente lasciandogli a disposizione una corda, e lasciati chiusi dentro la stanza senza breve tempo e cure. Vabbè, mediche, anche questo diciamo non è previsto da, diciamo. Lo so, vabbè, lei ha chiesto una opinione, io sto dando la mia. Ma un padre che fa una cosa del genere va solo che cancellato. Questo bambino di 11 anni è rovinato per tutta la vita. Non ci saranno assistenti sociali, non ci sarà amore degli altri parenti che potrà fare nulla. È un bambino rovinato. Pensiamo tra 10 anni, tra 15 anni, tra 20 anni, questo bambino come potrà diventare. Vabbè, Francesco, grazie. Giulio Roma, vai. Giulio. Sì, ciao, buonasera. Volevo dire, fermo restando che sono contrario a qualsiasi tipo di delinquente, però mi faccio una domanda: se sparissero tutti i pedofili dalla faccia della terra, avremmo risolto il problema della pedofilia. Vabbè, ma voi parlate troppo spesso e tanto spesso del problema dei Rom. Sì. Facciamo un parallelismo: ma se sparissero tutti i Rom dall'Italia, saremmo sicuri che avremmo finito di avere delinquenti, ladri? Certamente no. Ecco, allora io credo che questo vada un attimo stabilito, perché continuando a parlare come stiamo facendo, come stai facendo, Cruciani, da troppo tempo, tempo, ma se ce n'è l'assunto che tutti i problemi della delinquenza non lo hai mai detto, però insomma questi rom sono sempre al centro. Allora facciamo una trasmissione contro la mafia, contro la camorra. Scusa, ma io ho detto che il problema principale ho mai detto che il problema principale dell'Italia sono i rom? No, però praticamente quante puntate sono che si sta parlando dei rom e tutti che sono contro i rom, ma per quale ragione allora non cominciamo a dire che allora in Sicilia sono tutti mafiosi, perché oltretutto c'è questo non c'entra niente, dai. Ci sono dei luoghi in Italia, dei posti in Italia dove c'è un'emergenza rom, campi rom. Stiamo parlando di criminalità rom, ci sono dei politici che parlano di rom, ne parla Salvini che è uno dei principali leader del centro-destra, ci vive di quella roba. Dunque ne possiamo parlare pure noi, no? La polizia non può entrare, non per i rom. Vai in Sicilia. Anche dei quartieri a Milano non può entrare la polizia, dai. O comunque ha avuto per tanto tempo difficoltà ad entrare entrare. Parliamo di rom, parliamo dei delinquenti. I delinquenti vanno perseguiti. Facciamo delle distinzioni. È la tua generalizzazione, Crociani. Io non sto generalizzando niente, io parlo ogni tanto. Io ogni tanto parlo, ogni tanto parlo. Giulio, devi chiarire che non ce la puoi avere con un popolo. Io ma non ce l'ho con nessuno. Non ce l'ho con nessuno. Io ho detto semplicemente. Parliamo di criminalità. Tu hai una responsabilità, tu sei un comunicatore. Sì, però Giulio, ma io faccio una trasmissione radiofonica, non esageri. Le telefoniche che ti arrivano, sì, caro mio, ne hai in parte una responsabilità. Ma io ho la responsabilità di quello che faccio, ma non ho nessuna responsabilità civile e sociale di insegnare a qualcuno, perché non devo insegnare a nessuno il comportamento civile. Faccio una trasmissione radio, punto. Grazie. A me mi è rimasta in testa una cosa, la vicenda dei viaggi dei parlamentari, Parenzo, no? Cioè del fatto che paghiamo degli ex parlamentari, paghiamo €1 milione l'anno per i viaggi degli ex parlamentari. E allora, ma io che facciamo? Richiamiamo Pomicino? O è incazzato povero, con noi, dici? Povero Pomicino. È incazzato, l'abbiamo messo in mezzo alla cacca. L'abbiamo messo un po' in mezzo alla merda perché ha detto questa cosa sul vitalizio, che saranno le famiglie a piangere, le vedove, se tolgono i vitalizi ai condannati. Ma io ci proverei, proviamo un po' sulla questione. Pomicino? A Pomici. Pronto? Sì. Sto parlando col simbolo della casta? Sì. Eh? Sto parlando col simbolo assoluto della casta, col mostro della casta? Esatto, sì. Sono Cruciani, ma perché sei incazzato con me? No, vabbè. Ma non si fa così. Questo è un paese che sta morendo. E voi continuate a giocare. Ma noi che dobbiamo fare? Ci dobbiamo divertire un po', Paolo. Vabbè, ma ho capito, ma non è questo. Io non sono incazzato con te. Ma come no? Mi hanno detto che sei incazzato. Mi dicono che sei incazzatissimo con me perché abbiamo fatto quell'intervista. E vabbè, ho capito, tu ti sei incazzato. Ma mi sono arrabbiato perché voi dovreste affrontare le cose in maniera seria, da non dare fuoco ai bar che sono all'angolo di ogni strada. E questo è, a mio giudizio, il giornalismo di cui l'Italia ha bisogno. No, ho capito, però noi facciamo un mestiere anche diverso, cioè dove c'è la miccia, dove c'è il sangue, dove c'è sangue e merda che tu conosci bene, ci buttiamo come i pesci. Ma non è il giornalismo, no, ma ho capito, ma i soldi dei viaggi, hai visto il grillino là fraccaro? Ma io non so neanche i soldi di viaggio, qualche rimborso di qualche treno. Ma sì, ma se non, io ho già consigliato qualche anno fa ai questori per risparmiare di toglierci l'assistenza sanitaria, così c'è una moria generale. Beh, addirittura una moria generale, dai, su. Ma che moria generale, Paolo, dai, su. Ma secondo te un ex parlamentare... Voi non sapete che tutto questa... ma voi non siete giornalisti, voi siete ammoniatori. Che siamo? Ammuinatori, questa è bellissima. Ammuinatori. Carbonicamente siete tardi. Ma io voglio capire: €1 milione all'anno agli ex parlamentari per fare i viaggi. Ascoltami, dimmi, caro. Ma i viaggi non lo so, li vogliono togliere, li togliessero, non è problema. C'è. Io vi consiglio di togliere l'assistenza sanitaria, così possiamo morire molto più rapidamente. Però così il paese sarà più felice, crescerà di più, tutti saranno contenti e viva l'Italia. No, però ho capito, l'assistenza sanitaria, ma avere i viaggi, un milione di euro per i viaggi, è normale secondo te? Un milione di euro è scandaloso, è proprio scandaloso. Dai, su! Io vi dico, bisogna togliere anche l'assistenza sanitaria, bisogna togliere tutto. Ma perché gli ex parlamentari devono avere i viaggi gratis, me lo spieghi o no? Ma no, ma ce ne sono, io non lo so se hanno... Ma lo saprai, qualche rimborso una lo chiederai, no? I parlamentari erano classe dirigente del paese e quindi quando stavano 20 anni, 25 anni in Parlamento, come avviene sempre in tutti i grandi paesi, come avviene per la Corte Costituzionale, chi ha fatto, ha servito il paese nei posti più elevati, deve avere i viaggi gratis pure dopo. La Repubblica finisce per avere come residuo di quella esperienza un minimo di privilegio. Però se dobbiamo un attimo paragonarlo al lavoratore e all'operaio, certo sono due cose non paragonabili, e quindi è giusto che l'operaio che casomai ha perso il lavoro si arrabbia. Io dico che bisogna togliere l'assistenza sanitaria, compreso l'ossigeno terapia, per chi ha bisogno dell'ossigeno terapia. Risolviamo il problema in via definitiva. Ma tu quanti denari ti fa rimborsare per i viaggi? Ma non lo so, io non è di viaggio, poi di viaggio sono in treno, ma credetemi, 1.000 euro. 1.000 euro all'anno? Vabbè, mica è poco. Mica è poco, 1.000 euro. No, è tantissimo, è scandaloso. Ma tu, per esempio, non hai bisogno di fare, per esempio... Tu, per esempio, io voglio sapere, tu quando figli, fammi capire, non è scandaloso che ho saputo che io con il mio, io, tu e gli altri, niente di meno, che con il nostro canone, noi paghiamo 330.000 euro a Gillezzi, lo scemo all'arena di domenica. Ma che c'entra? E quella è la RAI che decide. È un legislatore, gli date 120.000 euro all'anno. 130. Ma a parte che non sono 130, ma comunque. Scandalosi, voi dovete avere un dittatore. Ma non ho capito, ma veramente tu pensi che sia è scandaloso dare 330.000 euro da Giletti? Sì. Nella prima Repubblica non sarebbe successo. Nella prima Repubblica. Dare a Giletti, lo dico, è scandaloso che voi date l'assistenza sanitaria anche agli ex deputati invece di lasciarli morire in pace. Devi invece fare questa operazione. È scandaloso quello che. Di Giletti. No, Giletti. Mi fa tenerezza. Ma perché ti fa tenerezza? Che ha fatto di male? Guarda, io devo scendere dalla treno. Vabbè, ciao. Un altro che se la piglia con Giletti, 330.000 euro l'anno, cos'è che ha detto? Per fare l'arena. Vabbè. Dai, su, dai, ancora Pomicino, basta, no, Paolo, dai. No, Pomicino però, al di là di Giletti, difende, come dire, una classe politica, cioè dice la politica è un lavoro e quindi come tale è classe dirigente. Dai, forza, Potito, Bari, vai. Buonasera. Dimmi. Vorrei giusto far notare agli ascoltatori che mentre il dottor Emiliano, candidato presidente della Regione Puglia per il Partito Democratico, ex magistrato, chiede ai suoi colleghi di Milano di chiedere scusa a Berlusconi, non altrettanto ha ritenuto mai di fare in questi anni né il dottor Emiliano né i suoi colleghi della Procura di Bari, che hanno dal 92 in poi fatto scomparire in Puglia circa 10.000 posti di lavoro. No, però Potito, questa è una roba politica, che cazzo c'entra con quello che ha detto Emiliano? Non dica strozzate, no, su. Senta, ma cosa c'entra? Perché... Quelle sono le sue idee politiche, lei pensa che Emiliano abbia amministrato male, non c'entra niente con i magistrati. No, abbia pazienza, io si parlo di Emiliano magistrato. E che qual è? Allora, Emiliano... che errori ha commesso? Che processi ha perso? Mi spieghi allora? No, allora, non devo fare le analisi di tutti i processi, io le parlo di due casi, il caso delle cliniche riunite, dottor Cavallari, Francesco Cavallari. Ma scusi, almeno io non so niente su queste cose qua. No, che cosa allora vuole dire? Ma informatevi cosa? Lei che cosa vuole dire? Che deve chiedere scusa anche dei suoi errori? Voglio dire che alle 2.000 famiglie che hanno perso i posti di lavoro in Puglia grazie al maloperato del dottor Emiliano, il dottor Emiliano non ha mai chiesto scusa. Vabbè, benissimo, dovrebbe chiedere scuse per i suoi errori giudiziari, questo dice lei? No, ha fatto perdere 2.000 posti di lavoro. Ma come li ha fatto perdere questi 2.000 posti? Come sequestri preventivi. Sequestri preventivi. Va bene, se... infondati, bene, d'accordo, adesso gireremo la questione al signor Emiliano, grazie. Dove andiamo? Vai. Mauro da Bari, vai, anzi, prima c'è Enzo da Roma, vai. Buonasera a tutti. Vai Enzo, dimmi. Vi premetto che io sono, non sono berlusconiano, assolutamente, però voi giornalisti non stigmatizzate troppo il fatto di questa lotta che il PD ha fatto. Sì, però sia un po' più veloce, sennò ci addormentiamo. Già stasera Parenzo mi ha fatto addormentare, che non ha detto un cazzo. Moscenia totale. Fatte una cosa, fatte una siringata prima. Che cazzo ne so? Ma io sono tranquillo. Fatte una siringata, appunto. Fatte una siringata. Non è che posso urlare. Ma non c'entra niente. Vabbè. Enzo, sì, vabbè, non hai capito. Allora, dai, Enzo, dunque. Allora, dico, è chiaro a tutti che Berlusconi è una vittima della magistratura e Berlusconi non mi sta affatto simpatico. Ma voi giornalisti, posso capire Parenzo che è legato con le camicie al PD, ma ve lo volete stigmatizzare? Ma che cosa dobbiamo stigmatizzare? Che cosa? Il fatto che il PD ha usato la magistratura per fare lotta politica nei confronti di Berlusconi. Va bene, una vecchia questione, va benissimo. Abbiamo certamente la politica. Beh sì, la politica sicuramente ha utilizzato la magistratura per fare lotta politica, su questo non c'è dubbio. Ci noi sentiamo domani. Civile, domani 18:30, ciao. Ma Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non dica queste cose a Parenzo che poi somatizza. Radio 24. La passione si sente.